Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente ci occuperemo del G7, perché il G7 riguarda sia le sanzioni, l'America ha chiesto un inasprimento delle sanzioni alla Russia nel summit che è in corso a Garmisch in Baviera, e come conseguenza della crisi ucraina, ma anche la Grecia. Si è molto parlato di Grecia a margine del G7. Il G7 in teoria era dedicato anche e soprattutto ai cambiamenti climatici, ma devo dire che dalle agenzie che sono uscite oggi, poi ne parleremo con chi è presente, si parla soprattutto di immigrazione per quello che riguarda l'Italia e i paesi europei. Grecia per quello che riguarda appunto l'Unione Europea, con varie dichiarazioni, e anche La vicenda è l'embargo alla Russia, con il controembargo russo per la vicenda ucraina. Tra l'altro sulla Grecia, nuovo incontro tra Varoufakis e Schäuble, quindi il ministro delle finanze greco e quello tedesco. Varoufakis l'ha definito un incontro produttivo, e poi però ha detto che in un'intervista allo Spiegel che i creditori della Grecia stanno sabotando il negoziato. Angela Merkel ha detto: vogliamo che Atene resti nell'euro ma faccia delle proposte, e il premier francese Hollande ha detto che i creditori potrebbero fare proposte alternative alla Grecia rispetto a quelle discusse la settimana scorsa. Il presidente americano Obama, sempre sulla Grecia, ha detto: la Grecia porterà avanti le riforme e tornerà a crescere. Gli Stati Uniti sostengono gli sforzi in atto per una soluzione del problema greco, che è diventato un problema a questo punto mondiale e non solo europeo, vista la preoccupazione molto esplicita anche degli Stati Uniti. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Dicevo, in apertura invece, l'andamento dell'economia italiana, non tanto per i dati diffusi oggi dal Ministero del Lavoro sui nuovi contratti, e la notizia della Fiat che farà altre 1000 assunzioni entro il 2015. Tra l'altro, i licenziamenti nel primo trimestre dell'anno hanno fatto meno 12%, sotto quota 200.000, è sempre un livello alto, ma era dall'inizio del 2012 che i licenziamenti non scendevano sotto quota 200.000, mentre il Ministero del Lavoro ha fatto sapere che nei primi tre mesi dell'anno le assunzioni a tempo indeterminato sono state 76.000 in più rispetto all'anno scorso, o meglio, a fronte di 475.000 cessazioni ci sono state 552.000 attivazioni di contratti di assunzioni a tempo indeterminato. Questo nei primi tre mesi, quindi il Jobs Act pesa solo per la parte finale, essendo entrato in vigore a 7 marzo di quest'anno, mentre gioca un peso la decontribuzione per i tre anni per le imprese, quella che è entrata in vigore dal 1 gennaio. Attenzione però, noi non sappiamo di questi 76.800 contratti stabili in più come saldo positivo quanti siano nuovi lavori e quanti, da quello che vediamo la maggior parte, siano contratti cambiati in tempo indeterminato, che è sempre un miglioramento della qualità dei contratti, ma non indica un aumento del numero dei lavoratori, quindi un calo della disoccupazione. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Dicevo, parleremo di Italia in apertura perché oggi si è tenuta l'assemblea annuale della Confcommercio e dal presidente dei commercianti italiani ha detto che insomma ci sono i primi segnali di una ripresa, ha detto Carlo Sangalli, anche se timida. Applauso poi della Confcommercio per il Jobs Act. Adesso chiedono i commercianti una semplificazione della parte burocratica e quindi di tutti quegli adempimenti, dei controlli eccessivi. Questa è la riforma della burocrazia di cui ancora non si vede traccia. Abbiamo detto più volte modestamente che I prossimi due impegni fondamentali del governo sono la riforma della pubblica amministrazione, che è in mano al ministro Madia, speriamo che la porti a compimento come promesso entro autunno, a partire dai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione. Dall'altro invece la semplificazione burocratica, di cui invece per ora non si vede traccia, neanche, diciamo, a livello di quadro, di cornice, di insieme, quanto a riforma. La borsa, meno 0,70% Milano, meno 1% Parigi, meno 1% Francoforte, meno invariata Londra, scusatemi, e l'America perde lo 0,20% sul Dow Jones, euro a quota 1,12. In realtà la notizia di borsa di oggi riguarda soprattutto la Turchia, dove la borsa di Istanbul ha perso l'8% in mattinata e la lira turca è crollata dopo il voto che ha visto sostanzialmente perdere 8 punti percentuali il partito islamico AKP, quello di Erdogan, e ha perso anche la maggioranza assoluta in Parlamento. Adesso però le altre notizie in breve. Visto che parliamo di Turchia, vale la pena segnalare come il gruppo italiano Astaldi abbia firmato oggi un contratto di finanziamento dal valore di 5 miliardi di dollari per realizzare l'autostrada Gebze-Ormgazi-İzmir in Turchia. L'investimento complessivo sarà di 6 miliardi e 400 milioni di dollari. Invece, sempre sulla vicenda che riguarda, poi ne parleremo ampiamente, la Grecia e la tenuta dell'euro, interessante notare che oggi la presidente argentina Cristina Kirchner, che è intervenuta a Roma alla 39esima conferenza della FAO, abbia sottolineato come l'approccio utilizzato dall'area euro per uscire dalla crisi è stato fuorviante. Nel nostro paese, ha aggiunto la Kirchner, abbiamo già provato cosa vuol dire l'austerità, quando vi fu il famoso piano del Fondo Monetario Internazionale, con conseguenze disastrose. E ora siamo consapevoli che sono i consumi a far girare la grande ruota dell'economia. Ecco, prendere lezioni dalla Kirchner, che ha vissuto come argentina sulla sua pelle l'austerità e la follia del Fondo Monetario al tempo, che sostanzialmente portò in un circolo vizioso l'Argentina, dovrebbe girare queste osservazioni anche alla Germania, perché parliamoci chiaro, l'austerità ha un'unica firma lì sotto che si chiama Angela Merkel e Wolfgang Schäuble, tutto il resto sono paesi satelliti che non hanno mai preso una posizione distinta, mi riferisco all'Olanda, alla Finlandia, per cui bene, giri questo commento anche ai tedeschi, vediamo se una volta tanto la capisco. L'Italia, allora, intanto, visto che parlavamo di Germania, oggi è arrivato un dato sulla produzione industriale più 0,9%, meglio delle attese, nel giorno in cui dalla Germania è arrivata la notizia di un cambio brusco apparentemente ai vertici della Deutsche Bank, si parla di terremoto, in realtà la decisione era attesa perché il risultato di bilancio del gruppo nei primi tre mesi ha visto un calo di 2 miliardi e mezzo, è stato pesantemente colpito dal 2 miliardi e mezzo di dollari di multa che Deutsche Bank ha patteggiato con le autorità britanniche e statunitensi per lo scandalo della manipolazione dei tassi Libor. Questa vicenda non aveva coinvolto i componenti del consiglio di amministrazione, ma molti avevano criticato il comportamento del gruppo e tra l'altro rischiano di esserci ulteriori irregolarità sui mercati dei cambi, delle catalogizzazioni dei metalli preziosi. Quindi decapitati i vertici di Deutsche Bank, sono arrivati dei nuovi vertici non tedeschi, tra l'altro, perché due amministratori delegati, Anshu Jain e Jürgen Fischen, si sono dimessi e al loro posto arriveranno John Cryan, che è un britannico banchiere di lungo corso in UBS e sedeva già nel consiglio di sorveglianza di Deutsche Bank. E mentre Angela Merkel ha detto di non essere affatto sorpresa dal cambio dei vertici di Deutsche Bank, la banca comunque decide da sola, la borsa ha apprezzato più 8% il titolo alla borsa di Francoforte. Allora, passiamo all'Italia. Renzi sulla crescita, noi con gli Stati Uniti, noi sul tema della crescita, vedo che c'è chi mi scrive e dice ma come si fa a prendere lezioni dalla Kirchner? Non ho mai detto che prendiamo lezioni dalla Kirchner, ho detto semplicemente che perfino la Kirchner ci dà lezioni sui danni che può creare l'austerità. Su questo il premier Matteo Renzi, in una conferenza stampa dopo il vertice del G7 in Germania, parlando della posizione italiana, ha detto: noi da sempre sui temi della crescita siamo stati completamente allineati sulla linea filoamericana, non come altri nostri partner. Il riferimento era chiaro alla Germania. La vera novità è che l'Italia non è più il malato d'Europa, questa è la grande novità, ha detto Renzi. E ancora, i dati sull'economia italiana sono positivi, anche se ancora timidi. Ora che le riforme strutturali stanno iniziando a dare i frutti, la discussione al nostro interno è stata una discussione su come sostenere la crescita. La posizione italiana è totalmente in linea con la posizione degli Stati Uniti, che ha espresso il presidente Obama, che ha introdotto questo panel di discussione sulla crescita, e vale a dire che noi dobbiamo fare di più, soprattutto come Europa, per sostenere la crescita, gli investimenti e quindi l'occupazione. E allora concentriamoci sull'Italia. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Chiedo scusa agli ascoltatori che segnalano che la mia voce oggi è un po' bassa di tono, sono leggermente rauco. Comunque non ce la faremo a arrivare fino alle 18.30, insomma, su questo spero di non gufare, ma non dovremmo avere dubbi. Andiamo con le notizie che riguardano l'Italia e soprattutto la fotografia dell'economia italiana scattata oggi dal mondo del commercio italiano rappresentato dalla Confcommercio. Allora, partiamo dai dati. La Confcommercio registra consumi in miglioramento. Anche qui, attenzione, è una media, per cui non iniziamo con i messaggi, ma dov'è questa ripresa? È una media, più 0,5%, che è poco, però va fatto notare che è il dato più forte da due anni a questa parte. È l'ufficio studio della Confcommercio che lo registra. Dopo il meno 0,1% di marzo, ad aprile c'è stato un più 0,5%. L'incremento tendenziale, ossia rispetto all'aprile del 2014, è dello 0,8%. Però, giustamente, la Confcommercio fa notare che con gli attuali tassi di crescita della nostra economia ci vorranno 15 anni, altro che il 2020, per tornare ai livelli pre-crisi, al PIL pro capite del 2007, nel 2030. E per avere il reddito disponibile nel 2007 bisognerà arrivare al 2034. Ecco perché diciamo modestamente che questa non è una crisi, che è inutile continuare a pensare a quando usciremo da questa crisi, perché invito chi è in ascolto a pensare nel 2030 che cosa ricorderà di come stava nel 2007. Non te lo ricordi più, è un calcolo statistico, ma ormai se sei vivo professionalmente come attività d'impresa nel 2030, se sarai vivo, avrai così tanto cambiato il tuo modello di impresa e modo di operare che non ti ricorderai più di... cioè il 2007 sarà parte del tuo passato, della tua vita, ma chi se ne frega di sapere che nel reddito pro capite tornerà nel 2034. Anche perché faccio notare che quando la crisi è scoppiata si disse nel 2020, anzi 2015 fu la prima previsione, poi 2020, adesso 2030 e 2034. Aspettiamo fiduciosi la data del 2050, così ce la mettiamo proprio via. Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: bene il Jobs Act, ora occorre arrivare alla semplificazione delle norme burocratiche per le imprese, adempimenti e controlli eccessivi. Registriamo dei primi, seppur timidi, segnali di ripresa economica. Oggi buoni segnali vengono dalla produzione industriale, che è in crescita negli ultimi mesi, e anche i consumi stanno dando cenni di risveglio. Dai nostri dati, la spesa reale delle famiglie è cresciuta in aprile di mezzo punto rispetto al marzo e dello 0,8 rispetto all'anno precedente. Anche l'occupazione ha mostrato finalmente un significativo incremento in aprile. E altri effetti positivi vengono anche da Expo, che può valere da solo un aumento aggiuntivo di 2 decimi di PIL e 3 decimi di consumi. E analogo effetto potrà avere anche il Giubileo straordinario, così come sarà importante il successo della candidatura alle Olimpiadi di Roma 2024. Sono segni più che aspettavamo da tempo, troppo tempo. E poi su questo anche il ministro Guidi, il ministro Federica Guidi, intervenuta all'Assemblea di Confcommercio, conferma la recessione alle spalle, ora è il momento della ripresa che va costruita con fatica e costanza. I dati, lo citavi anche tu Presidente, per la prima volta ci consentono un ottimismo che non è di maniera. Finalmente i consumi degli italiani hanno ripreso a crescere dopo che avevamo perduto quasi l'8% fra il 2007 e il 2014, erano dati quasi da guerra da un punto di vista industriale. Nel primo trimestre del 2015 l'indice delle vendite al dettaglio ha segnato un incremento dello 0,3% rispetto al 2014, grazie soprattutto anche al contributo di prodotti del settore alimentare, il cosiddetto prodotti del food. Quindi la recessione io credo ormai si possa dire, perché fino a qualche mese fa eravamo tutti un po' anche, come dire, timorosi nell'usare questa parola, io credo che si possa dire, la recessione è alle spalle, è arrivato il momento della ripresa. La ripresa, io credo che la ripresa vada certamente costruita e sostenuta, perché la ripresa c'è e i dati lo dimostrano. La ripresa va costruita e va sostenuta naturalmente ancora con fatica. Beh, sentivate sullo sfondo alcuni fischi, alcune proteste, il malumore della sala quando il ministro ha detto la ripresa c'è e va sostenuta. Modestamente è quello che noi registriamo tutti i giorni, cioè ogni volta che raccontiamo di un PIL in crescita arrivano decine di messaggi e mail che dicono: ma dove vivete? La crescita non c'è, fate propaganda renziana. Allora, noi citiamo i dati dell'Istat, ripeto, quando la crescita è così modesta, più 0,3%, è frutto, diciamo, di una media statistica ed è altamente probabile che molti ascoltatori non la vedano e altrettanti ascoltatori vedano addirittura una contrazione dell'attività, perché uno 0,3, ecco perché non ci si può accontentare, non lo noti nemmeno, è un prefisso telefonico. Detto questo, è vero tecnicamente che siamo usciti dalla recessione, che dopo 13 trimestri col segno meno è arrivato un trimestre col segno più, tutto questo è vero, da lì a dire, è come se uno avesse la febbre a 39, se scende a 38,7 stai migliorando, da lì a dire che non hai più la febbre, stai bene, ce ne passa. E sempre il ministro Guidi ha evidenziato, parlando delle misure introdotte dal governo per stimolare la crescita, quelle sul taglio delle bollette elettriche a favore delle piccole e medie imprese. È stata la prima volta che rispetto al passato, grazie al pacchetto cosiddetto taglia bollette, le piccole e medie imprese per la prima volta sono state le principali beneficiarie e non una tasca profonda da cui attingere da sempre. Qualcuno la chiama ridistribuzione, secondo me questa è stata un'operazione di vera e propria restituzione. E più ancora del risultato che abbiamo ottenuto in termini monetari, che comunque non vi sfuga, non è un risultato da poco, perché parliamo di 2,7 miliardi di euro di minori oneri nel 2015, di cui 1,6 miliardi totalmente restituiti alle piccole e medie imprese. Io credo che oltre a questi valori economici importanti, conti anche il segno che il governo ha voluto dare. Allora, vedo che appunto i messaggi sono questi. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'autore, per così dire, insomma, della stima su quando torneremo ai livelli del 2007, diffuso oggi all'Assemblea di Confcommercio, e quindi il 2030 come spesa delle famiglie e il 2034 come reddito disponibile, il capo del Centro Studi di Confcommercio, Mariano Bella, buonasera. Buonasera. Allora, un attimo ancora, sì. Bella, perché vorrei far ascoltare che cosa hanno il commento alle parole anche di Sangalli, fatto da un lato dal numero uno della CISL, il segretario generale Anna Maria Furlan, al microfono la nostra Valentina Fulanetto, e invece poi quello di Susanna Camusso, leader della CGIL. Presidente Sangalli ha fatto un esame molto logico e molto giusto rispetto alla situazione. Ci sono segnali di ripresa, qualche posto di lavoro in più, soprattutto posti con contratto a tempo indeterminato, sale l'export, ma si fa ancora fatica a far ripartire i consumi, che per un paese manifatturiero come il nostro i consumi interni sono fondamentali. Quindi il presidente Sangalli, credo unitamente anche a tanti altri soggetti, tra cui il sindacato italiano, fa un appello al governo perché al centro ci sia dell'azione dei governi nazionali e regionali il lavoro, la crescita e lo sviluppo. Senza questo gli altri provvedimenti a sostegno dell'occupazione servono a poco. È indubbio che ci sono alcuni segnali che vengono dalla diminuzione del prezzo del petrolio, dagli interventi fatti dalla Banca Centrale Europea, da alcuni elementi di traino delle esportazioni, non li abbiamo mai negati. Ciò che non c'è è un cambiamento della situazione strutturale dell'economia italiana, cioè la ripresa della domanda aggregata, questa non c'è, e quindi dal punto di vista delle condizioni delle persone, dell'impoverimento e della ripresa strutturale dell'attività manifatturiera e di servizio del nostro paese risulta non ce ne sono, tant'è che continuiamo ad avere tantissime vertenze aperte e che lo zoccolo della disoccupazione continua a essere a due cifre. Allora, il capo economista del Centro Studi della Confcommercio, Mariano Bella, molti stanno scrivendo sul 2030-2034, poi arriviamo invece agli elementi più specifici. Ma cos'è, un esercizio statistico? Ma è un esercizio da foglio Excel, non c'è niente di straordinario. Cioè, stiamo dicendo che se prendiamo i tassi di crescita di PIL, consumi e reddito disponibile, che stimiamo per il biennio 2015-2016 mediamente l'1%, in termini pro capite, cioè ci togliamo due decimi di crescita della popolazione, che è la stima dello scenario centrale dell'Istat, e portiamo avanti il livello del PIL pro capite, del reddito dei consumi pro capite, torneremo verso il 2030 per recuperare i livelli del 2007, è ovvio, perché abbiamo perso sostanzialmente il doppio e non stiamo recuperando niente. Se poi raddoppiamo, in ipotesi di avere una crescita un po' più forte, questi livelli, sempre in maniera diciamo deterministica, ci vorranno diciamo altri 6-7 anni per tornare ai livelli del 2007. Questo è per dare il perimetro di quanto abbiamo perso. Il che non ci esime però dall'obbligo, se facciamo un certo mestiere, di riconoscere che certi segnali ci sono. Io non disprezzerei il più 0,3% di PIL, certo, nel primo trimestre in termini congiunturali. Vuol dire semplicemente che abbiamo recuperato la fossetta vissuta nel 2014. Grazie al direttore del Centro Studi Perotti. Grazie al direttore del Centro Studi di Confindustria, Mariano Bella, sul tema dell'occupazione, ma soprattutto anche dei dati che sono arrivati. Oggi il ministro al lavoro Giuliano Poletti ha confermato e commentato l'annuncio della Fiat, che, o meglio il gruppo Fiat Chrysler Automobiles, assumerà altri 1000 lavoratori entro il 2015 negli stabilimenti italiani. Io credo che tutte le volte che un'impresa dichiara di essere intenzionata a fare assunzioni è sicuramente una buona notizia. Adesso sappiamo che il settore automobilistico sta avendo un buon sviluppo, buoni risultati, e peraltro questo conferma il fatto che l'Italia è un buon paese sul piano manifatturiero, cioè siamo in grado di fare buoni prodotti nell'industria e venderli nel mondo. E sul Jobs Act, licenziamenti, dati sui lavori a tempo indeterminato. Allora, Da un lato il ministro sempre Poletti ha specificato come il Consiglio dei Ministri sui decreti attuativi del Jobs Act non sia stato ancora fissato, ma verrà fatto o domani o dopodomani, e ha sottolineato come la nuova normativa sul lavoro aumenti le tutele per i lavoratori rispetto ai contratti atipici in vigore in precedenza. L'articolo 18, che tutti quelli che erano precari non avrebbero mai visto, e quindi stiamo parlando di una cosa che non hanno e non avranno e non avrebbero avuto, mentre avranno tutte le tutele che sono previste dai contratti stabili. Quindi io credo che se oggi qualcuno non riesce a vedere la differenza tra un contratto a tempo indeterminato con quell'articolo 18 così come è oggi e ciò che era prima un cococò, un cocopro, beh, probabilmente non ha idea davvero di quale sia la differenza fra questi contratti. Io credo che questo contratto sia assolutamente molto meglio. Ovviamente di opinione nettamente opposta la segretaria della CGIL, Susanna Camusso. Il giudizio resta negativo sulla struttura, sulla operazione di riduzione dei diritti delle persone, sul mantenimento. Adesso vedremo come viene licenziato formalmente il decreto sulle tipologie contrattuali, ma sul mantenimento di forme di precarietà che anzi vengono estese, penso ai voucher. Le domande che ci proponiamo sono quelle che, se poi anche per la parte degli interventi sugli ammortizzatori, risponderà ai criteri di universalità da una parte, alla possibilità di governare i tanti processi di ristrutturazione che sono in corso nel sistema delle imprese, quindi con la sensazione che in realtà si stia riducendo gli strumenti a disposizione, non aumentandoli. Non torno sul tema, ne abbiamo parlato molte volte del Jobs Act, che sia un contratto con minori tutele rispetto al vecchio tempo indeterminato è noto, che sia meglio un contratto a tempo indeterminato, seppure col Jobs Act, rispetto ai cocopro, le partite IVA, al mondo che c'era e c'è, perché sembra quasi che vengano distrutte le garanzie di prima. Prima la maggior parte dei neoassunti era a cocopro oppure partita IVA, quindi nemmeno assunto, a tempo determinato. Ecco, per queste persone è sicuramente meglio avere un tempo indeterminato col Jobs Act, che almeno ti dà, nel caso di licenziamento, 2 mesi per ogni anno lavorato, da un minimo di 4, tutela la maternità e le malattie, rispetto ai cocopro, i contratti a progetto. Certo, come dice, rispetto al vecchio tempo indeterminato meno garanzie, è vero, però rispetto ai milioni di contratti precari che ci sono e c'erano, è meglio questo, per cui bisogna capirsi e non parlare come se prima il mondo fosse tutto bellissimo improvvisamente distrutto dal Jobs Act. Chiedete a chi era cocopro e adesso ha il contratto a tempo indeterminato secondo le caratteristiche del Jobs Act. Traffico. Focus Economia. Va bene, vedo molte critiche anche sul Jobs Act, comunque giustamente ognuno la pensa in maniera diversa. Abbiamo appena fatto ascoltare l'opinione del ministro Poletti e quella del segretario della CGIL Susanna Camusso. La borsa adesso e poi arriviamo al G7 in Baviera, -0,90% Milano alla fine. Parigi -1,30, Francoforte -1,20, Londra -0,20, gli Stati Uniti sul Dow Jones -0,30%, tra i titoli Saipem +2,20 e sul fronte opposto Mediobanca -2,80, Monte dei Paschi -2,60, Pop Emilia Romagna -2,20 e Unicredit perde il 2%. Come sempre Radio Corio sulle 24 ore, ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Poco mossi, diciamo, i migliori e peggiori nel FTSE MIB, incertezze sulla Grecia, questa mattina pesante il calo sulla borsa di Istanbul, Fiat da un lato e Cassa del Risparmio di Genova dall'altro. Ma sì, Fiat sostanzialmente si era difesa bene per buona parte della seduta, era arrivata anche a rimbalzare più 1,2%, ciò nonostante lo slittamento dell'IPO della Ferrari, ma perché sostanzialmente gli operatori guardano comunque al fatto che Fiat presto o tardi dovrà aggregarsi con un'altra big, quindi diciamo una prospettiva che per gli operatori è anche prettamente speculativa, di cui gli acquisti sul titolo che poi nel pomeriggio, parallelamente al peggioramento di Milano, ha perso e ha chiuso lo 0,5%, ma comunque fatto meglio del, diciamo, del FTSE MIB. Per quanto riguarda Banca Carige, invece, era il primo giorno dell'aumento di capitale, il titolo ha chiuso pressoché invariato, di poco, ha fatto più 1%, però ben più pesante è stato l'andamento del diritto, che ha lasciato sul terreno il 16%, insomma una partenza un po' in salita per questa operazione di ricapitalizzazione. Mediaset, uno poteva immaginare un andamento diverso, invece il titolo è, anche Mediaset oggi non si discosta molto, meno 1,1%, lì però è sfumata anche l'ipotesi di accordo con Vivendi. Beh, diciamo che sono delle voci che magari, anche perché ultimamente si è parlato soprattutto di Milan per quanto riguarda l'universo Mediaset, ovviamente. Ma si sono un po' placate le voci su Vivendi, ciò non significa che il dossier sia definitivamente accantonato, tuttavia dopo il lungo rally Mediaset ha un po', diciamo, imboccato la parabola discendente e infatti oggi ha toccato i minimi degli ultimi due mesi, ma anche in questo caso, come per quanto riguarda Fiat, ovviamente c'è anche un forte appeal speculativo. Allora, per quello che riguarda il Monte dei Paschi, oggi si è chiuso l'aumento di capitale, il titolo ha perso un altro 2,60% sui diritti e l'1,30% sulle azioni. Sì, Monte dei Paschi è curioso vedere diciamo il prezzo combinato, cioè sommato oggi il prezzo del diritto e il prezzo dell'azione, paragonato al prezzo solo dell'azione prima che partisse l'aumento di capitale. Ebbene, facendo questo confronto in queste, insomma, due settimane di aumento di capitale, il titolo Monte dei Paschi ha perso complessivamente il 26%. Questo mi sembra un'indicazione insomma abbastanza chiara. Alla faccia dell'aumento di capitale dilutivo, alquanto dilutivo. Edes più 20%, Novare più 8,46, Fedon più 6,60 i migliori, V-Ray Communication meno 10%, Visibile Editore meno 9% e Primi sui Motori meno 8,60% i tre titoli peggiori. Grazie a Ciò Condine, a Radio Corri sulle 24 ore. Dopo il GR24 ascolteremo invece quanto dichiarato dal numero 1 di Unicredit Federico Ghizzoni sulla crisi ucraina e greca e sulle prospettive di mercato, e parleremo proprio del G7 dedicato a Kiev e ad Atene. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso, prima di arrivare al vertice del G7, avevo anticipato un'intervista al numero 1 di Unicredit Federico Ghizzoni, l'ha fatta il nostro Dario Ricci, l'ha fatta in un'occasione strana, ha incontrato Ghizzoni a Berlino, chiaramente per la finale di Champions di sabato scorso, e hanno ragionato soprattutto di Grecia in questo momento, ma anche della crisi ucraina, tutti i temi che poi affronteremo tra qualche minuto per quello che riguarda il racconto del vertice del G7. Comunque è partito Federico Ghizzoni dal nuovo accordo riguardo l'economia, anche se parliamo di calcio, per i diritti di sponsorizzazione di Unicredit estesi a tutti i più importanti tornei calcistici europei per club, quindi banca ufficiale della UEFA Club Competitions, Champions League, Europa League e Fasal Cup, così come la Supercoppa europea. A parte dai risultati eccellenti che abbiamo avuto nei primi 6 anni, noi non lo vediamo come un costo o come beneficenza, per noi è un vero investimento, ci ha dato degli importanti ritorni e ce ne darà ancora di maggiori nei prossimi 3 anni, sostanzialmente per due ragioni. Uno, perché comunque abbiamo un numero di partite superiori, avendo anche l'Europa League. Tanti team che sono nell'est Europa già al secondo turno scompaiono, mentre con l'Europa League rimangono in gioco, e quindi ci aiuta molto localmente. Poi la grande novità è anche dal punto di vista commerciale, che possiamo promuovere non solo brand, ma anche prodotti, quindi localmente sceglieremo i prodotti da promuovere, quindi vedrete sul campo Unicredit e poi il prodotto. Questo combinato con sforzi fatti poi localmente in maniera più specifica dovrebbe darci un ritorno importante. Est Europa, preoccupati per gli sviluppi ancora tutti da definire della crisi ucraina, mercato per voi importante? Certo, siamo preoccupati come tutti di questa situazione che sembra non finire mai tra Russia e Ucraina, che impatta poi sia sull'economia ucraina, impatta su quella russa, poi impatta un po' su tutto il cosiddetto sentiment, quindi sulla fiducia europea. Adesso c'è anche questa negoziazione interminabile, anche qua con la Grecia, che ogni giorno scombina un po' le carte, e quindi vediamo i mercati sempre più volatili, sia sul cambio, che sui tassi di interesse, sulle borse. Come operatore di mercato ci auguriamo che tutto questo finisca velocemente e che la parte politica trovi una soluzione. Tornando alla Russia, direi che il ruolo dell'Europa è fondamentale qua, perché alla fine, che ci piaccia o non ci piaccia, la Russia geograficamente è in Europa e l'interscambio russo-Europa è enorme, sono 250 miliardi di euro. C'è da trovare una soluzione che tenga presente certi valori, ma tenga anche presente che ci sono valori economici in gioco che vanno protetti, insomma. Segnali di ripresa, sembra che il quantitative easing voluto da Draghi stia pagando. Sì, questo invece, passando a notizie più positive, è vero, vediamo recuperi generalizzati nelle economie europee, incluso anche tra l'altro il centro-est Europa, e in Italia la ripresa sembra accelerare rispetto a quello che si pensava 3 mesi fa o 6 mesi fa. Non penso sia solo all'effetto Draghi, che comunque è stato determinante come volano per partire. Forse cominciamo a vedere anche l'effetto di alcune riforme, tipo la riforma sul lavoro e altre, che stanno portando più fiducia al mercato, insomma. L'ultima cosa, sull'Italia c'è un interesse enorme da parte di investitori stranieri, nella logica che il paese è, come posso dire, è a buon prezzo, visto che arriviamo da 4-5 anni di crisi, ma anche conferma del potenziale che ha, perché se uno investe oggi può pensare di comprare a buon prezzo, ma solo se ritiene che ci sia una ripresa, altrimenti il prezzo non esiste, no? Quindi una situazione che va sfruttata fino in fondo, cerchiamo tutti di marciare adesso nella stessa direzione, anche noi cerchiamo di fare il possibile per sostenere questa ripresa. Sul tema di, ahimè, Grecia e Ucraina, perché se n'è discusso nella seconda e ultima giornata del summit del G7 a Garmisch in Baviera, e devo dire che al di là della dichiarazione complessiva la ripresa procede, ma c'è ancora molto da fare. Obama ha aggiunto: non ho mai detto che il dollaro è forte, però insomma gli Stati Uniti hanno chiesto un maggiore o meglio hanno ribadito l'inasprimento delle sanzioni sulla Russia se non verranno rispettati gli accordi, ma il premier Matteo Renzi ha detto per quello che riguarda la crescita, quindi la vicenda anche greca, noi da sempre siamo su una linea filoamericana e non come altri partner europei. Sulla Grecia Varoufakis ha definito produttivo il colloquio con Scioble, ma ha detto sostanzialmente che non vi sarà accordo, l'agenzia di poco fa, senza una ristrutturazione del debito greco. Il premier Matteo Renzi ha definito già sostanzialmente ieri l'uscita della Grecia dall'euro come un errore, mentre oggi ha dichiarato la vera novità è che l'Italia non è più il malato d'Europa. Questa è la novità, non siamo più noi il malato d'Europa. Credo che sia un convincimento diffuso che non basta parlare di rigore e di austerity, ma che occorra agevolare gli investimenti. Nell'intervento di ieri anche la cancelliera Merkel ha sottolineato l'importanza degli investimenti in alcuni settori, però personalmente credo che si apra una fase molto interessante per l'Europa. Il Regno Unito va al referendum. La Polonia ha una svolta sulla presidenza della Repubblica nazionalista. la Grecia sta nelle condizioni che conosciamo. In Spagna si è molto discusso per un successo più o meno autentico di Podemos o comunque di forze antisistema alle elezioni amministrative. In Portogallo va a elezioni. La Francia ha una discussione al proprio interno. Questo è il momento buono per discutere di qual è il modello di politica economica europea. Su questi temi finalmente si discute. La mia grande soddisfazione, ma anche la grande responsabilità che avverto, è che l'Italia si presenta a questo dibattito non più come il malato d'Europa, ma come un protagonista con i propri limiti e i propri punti di forza, con i propri difetti e le proprie qualità, ma l'Italia è a questo tavolo portando le proprie valutazioni. E questa è la novità rispetto al passato. Eravamo un problema fino a qualche anno fa, non siamo più il problema. Siamo una parte della soluzione. E poi sui dati sull'economia italiana, il Premier ha detto sono positivi ma ancora timidi. Ringrazio l'economista Mario De Aglio per averci raggiunto in collegamento, insegna economia internazionale all'Università di Torino. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a tutti. Un minuto di pazienza, ho le informazioni sul traffico. Focus Economia. Ci ha raggiunto in collegamento anche dalla Baviera, da Garmisch, l'inviato del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi, che sta seguendo appunto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Gerardo, buonasera anche a te. Vorrei partire appunto dalle ultime novità. Renzi ha detto insomma fuori la Grecia, fuori dall'euro, un errore. L'Italia non è più il malato dell'Europa. I dati economici sono ancora timidi. Sul fronte russo invece, quindi Russia e Ucraina? Sul fronte russo, questo è il secondo G7 senza Putin, questo bisogna ricordarlo. E proprio alla vigilia di questo G7 sono ripresi i combattimenti nell'est dell'Ucraina e quindi i sette grandi non potevano ovviamente ignorare il problema e far finta di niente. Nei confronti dell'Ucraina e nei confronti della Russia, i leader del G7 sono pronti ad adottare, come dice il comunicato, ulteriori misure restrittive, no, contro la Russia se sarà necessario. La durata delle sanzioni deve essere legata ovviamente al completo rispetto degli accordi di Minsk da parte della Russia e al rispetto della sovranità ucraina. Però queste posizioni molto anche dure sulle nuove sanzioni americane sono poi in realtà mitigate da certi atteggiamenti sia dei tedeschi ma soprattutto dell'Italia e di Renzi, che vedrà appunto mercoledì Vladimir Putin, che sarà in visita all'Expo a Milano e ci sarà un bilaterale importante, forse molto più importante dei bilaterali che ha tenuto qui, perché in realtà tranne l'incontro con il premier giapponese e col presidente tunisino, una stretta di mano con Obama e un'altra stretta di mano con il direttore del Fondo Monetario Christine Lagarde, grandi bilaterali non se ne sono visti tra Renzi e gli altri protagonisti del G7. Però ecco, sulla Russia, secondo Renzi, l'obiettivo di tutti, anche della Casa Bianca, è quello di reingaggiare, rimpegnare la Russia sulle tante, certo, partite aperte, non solo quella ucraina. E ricordiamo appunto che Putin sarà all'Expo dopodomani, mercoledì. Mercoledì, fronte greco, così poi passo all'analisi di Mario De Aglio. Anche qui, insomma, Renzi ha detto noi sul tema della crescita, non è che direttamente fosse coinvolta la Grecia, l'abbiamo sempre pensata come gli americani, a differenza di alcuni partner europei, quindi più favorevoli a essere buoni all'austerity. Ma sul fronte greco ancora siamo alle schermaglie, Gerardo. Sì, assoluto buonsenso, però una stretta coincidenza di posizioni tra Obama e la cancelliera tedesca sul fatto che le riforme e la solidarietà sono due facce della stessa medaglia, quindi l'una deve andare insieme all'altra. Quindi la Grecia deve fare le riforme, l'Europa ovviamente deve tenere presente tutti i riflessi politici di una Grexit e quindi impedire al massimo questa eventualità, ma il governo greco deve mettersi in testa che insomma le riforme vanno fatte e gli impegni vanno rispettati. Allora, un ascoltatore mi dice ma come la radio di Confindustria, a parte che siamo la radio del Sole 24 Ore, ma vabbè, non fa mai notare quanto l'eccessiva tassazione uccide l'economia. Io non so che cosa ascolti, perché abbiamo Oscar Giannino che sul tema della tassazione giustamente batte quasi ogni giorno. noi stessi ci siamo espressi, tassazione e burocrazia, quindi anche spese improprie. Sulla spending review sappiamo benissimo, magari domani lo ascolteremo, che Gutgeld ne ha parlato sabato al convegno dei giovani imprenditori, stimando in 10 miliardi il risparmio della spesa pubblica e elogiando anche il lavoro fatto da Cottarelli. Non ho, la mia obiezione è che non abbiamo ancora capito quando e come arriveranno queste riforme, a partire dalle stazioni appaltanti, dai centri appaltanti, 40.000 centri appaltanti, la riforma delle municipalizzate, che cosa capiterà su tutte le 5.000 società partecipate dagli enti locali. Questo era il mio tema. Comunque, restiamo sul fronte internazionale. Professor De Aglio, la situazione sull'Ucraina, vabbè, come ricordava Gerardo Pelosi, si complica, l'accusa è che siano stati violati tutti gli accordi da parte della Russia e sono pronti a maggiori sanzioni. E questo è un danno anche e soprattutto per l'Italia, da sempre il terzo partner commerciale della Russia. Sul fronte greco io non so più cosa dire e non so neanche più cosa fare, nel senso che pochi minuti fa appunto Varoufakis, il ministro delle finanze greco, ha detto: senza la ristrutturazione del debito non si arriverà a un accordo, ma mancano due giorni e comunque adesso a fine mese la Grecia deve pagare tutto il pacchetto al Fondo Monetario, 1.600.000.000. De Aglio. Ma guardi, io mi ricordo i primi G7 nel 75, quindi siamo a 40 anni, no, cosa sono? 40 anni fa. Ne ho visti tanti, ho la mente tendenzialmente contorta. E quindi penso che ci sia soprattutto uno show per il pubblico. Le cose vere non vengono dette e vengono scambiate confidenzialmente tra questi sette personaggi che si incontrano a quattro occhi. Sono più importanti gli incontri bilaterali, come si diceva prima, di queste grosse kermesse in cui ci si fa fotografare tutti assieme. Per quanto riguarda l'Ucraina, attenzione, qui secondo me c'è una montatura mediatica. Guarda caso questi incidenti, di cui non abbiamo neanche un reperto filmato da nessuna parte, sono venuti due giorni prima del G7, appunto perché si potesse fare la faccia feroce con la Russia e dirle che deve stare brava. Poi che cosa sia successo davvero, se questi siano delle cose molto diverse da quelle che succedono, gli incidenti, le schermaglie che succedono da mesi, francamente non lo sappiamo. Ma tutti vanno a casa contenti, gli americani hanno fatto la faccia feroce, gli europei hanno fatto la faccia contrita e tutto continuerà più o meno come prima. Per quanto riguarda la Grecia, è una commedia che va avanti, una specie quasi di partita a poker. Io credo che alla fine bisognerà riscadenziare il debito greco, non c'è niente da fare, insomma, la meccanica di questi conti non è sostenibile diversamente. Il più è capire che cosa ci danno i greci in cambio. La loro risposta, il loro obiettivo è darci niente. Cioè, riscadenziare il debito e continuare come prima, sperando che prima o poi la congiuntura del Mediterraneo migliori e quindi anche loro si tirino su. Questa credo sia la situazione papale. Per il resto, l'unico dato su cui c'è una novità di principio, che non, quindi non impegna politicamente nessuno, ma è bene che sia detta, è quella che riguarda il clima. E così sì, in là nel tempo, che tanto tutti questi qui saranno tramontati per allora. Sì, lei si riferisce immagino all'accordo sul clima, si sarebbero accordati i vari capi di Stato sul mantenere l'aumento della temperatura globale entro il limite dei 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Sì, attenzione, perché poi c'è la Cina, c'è l'India e poi insomma, non è che i 2 gradi li puoi fare per decreto. Comunque è l'unico accordo forse che è uscito. Però una cosa ancora, professor De Aglio, sulla Grecia. Nel senso che Varoufakis dice dobbiamo rinegoziare il debito, c'è chi ci sta scrivendo e sottolineando come l'atteggiamento della Banca Centrale Europea, cioè di bloccare ogni aiuto alle banche greche, sia un modo per fare pressione sulla Grecia. Ma a che pro, se tanto tutti abbiamo capito che con questo tasso di crescita e con diciamo sostanzialmente un'economia in cui se tu utilizzi l'avanzo primario greco per pagare gli interessi non hai soldi per far ripartire l'economia, tanto loro non lo ripagheranno questo debito. Cioè questo braccio di ferro, secondo lei, è realisticamente a cosa deve portare? A ristrutturare il debito greco in cambio di? In cambio di salvare la faccia in qualche modo, perché in questo momento chi salva la faccia sono i greci e noi no. Noi gli abbiamo dato i soldi e in più saremo presi in giro. Dobbiamo fare in modo da non essere presi in giro, quantomeno. Quindi bisogna che la Grecia dia il suo accordo a delle misure che vogliono dire tassare gli armatori, per esempio, che non pagano una lira di tasse in Grecia, ristrutturare l'impiego pubblico, nel senso che ci sono tantissimi prepensionamenti che non hanno più senso in questa età. Tutti questi loro si impegneranno in via di principio e poi ci metteranno il loro buon tempo a fare qualunque cosa. Gerardo Pelosi, per concludere ancora un poco più di un minuto, mi interessava una cosa, ma il Premier Renzi, Matteo Renzi, non ha fatto notare appunto anche al di fuori dell'ufficialità come l'Italia sia così impegnata anche nella vicenda greca, ma non riceva un aiuto, o meglio un impegno uguale sul fronte dei migranti? Ti dico perché uno potrebbe anche immaginare che in una partita di scacchi Renzi possa fare, se ha voglia, se ne ha le capacità, la voce grossa dicendo attenzione, qui ci state lasciando soli completamente sul fronte immigrazione, mentre l'Italia è stato un partner comunque fedele per quello che riguarda la gestione della vicenda greca. Ecco, secondo te non è pensabile usare quest'arma come arma di scambio, se si può usare il termine? I negoziati comunitari mettono insieme tante cose, però mettere insieme cose così diverse mi sembra un po' difficile. Tra l'altro l'Italia e la Grecia stanno sullo stesso fronte sud della frontiera sud dell'Europa e una cosa che vede insieme Italia e Grecia è appunto il fatto che la Commissione europea ha predisposto un'agenda sull'immigrazione che prevede che l'Italia prenda 24.000 tra siriani ed eritrei nei prossimi due anni e mi pare 10 o 16.000 i greci. Questo che cosa vuol dire? Che in realtà noi accettiamo e incoraggiamo il principio rivoluzionario per l'Europa rispetto al regolamento di Dublino, che quindi anche ci siano una distribuzione di altri paesi europei. Però sta di fatto che nei prossimi 24 mesi, se non cambieranno le cose, in Italia, nel Canale Sicilia arriveranno, dal Canale Sicilia arriveranno in Italia qualcosa come 350-400.000 migranti. Quindi i 24.000 non sono neanche 10%, 6-7%. Quindi noi significa che dobbiamo identificarli tutti e poi ridistribuirli, ma la distribuzione in Europa avverrà su cifre molto più basse, 24.000, quindi tutti quelli che non verranno ridistribuiti rimarranno sul territorio italiano, questo è evidente. Dall'altra parte, sì, a livello europeo, che cosa dicono molti paesi del nord? Sì, è vero che arrivano in Italia, però quelli non identificati, e molto spesso i poliziotti sulla frontiera italiana si voltano dall'altra parte, li troviamo poi a Stoccolma, a Göteborg, in Germania. Tant'è che quelli che hanno ottenuto l'asilo sono molti di più in Svezia, in Germania, in Belgio, in Francia, che non in Italia. Altro problema. Prego Gerardo, perché devo concludere, che siamo fuori tempo massimo. Torniamo sul tema anche domani a questo punto, perché il tempo veramente è scaduto. Grazie a Mario De Aglio, grazie anche a Gerardo Pelosi in collegamento con noi da Garmisch, dove si è concluso il vertice del G7. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.